Allora, la prossima settimana seguisco le schede di valutazione del corso. Sempre il modulo B, cioè questo, quindi è dedicato esclusivamente a voi, sia per il modulo A, e quindi voi comporrete quindi la vostra valutazione sul vostro modulo, quello B, e poi unicamente a quelli del primo anno, sul primo anno. Queste schede io non le vedrò perché vanno direttamente a questi centri megagalattici dell'università, eccetera, eccetera, mentre invece vedrò, tutti anonimi naturalmente, mentre vedrò le schede, peraltro anche queste rigorosamente anonime, che distribuirò, con cui invece mi dite quello che secondo voi pago, faccio. Questo potrebbe avvenire, nel caso per dividere un po' le cose, potrebbe avvenire lunedì, quindi di valutazione vostra, e giovedì facciamo quello del modulo A. Vorrei che prendeste. State seguendo nonostante la difficoltà, come dire, sta seguendo. Al pagina 187, pagina 187. C'è un pensiero assolutamente tipico del nostro che richiede qualche osservazione, dice che si fa come se per qua la premanze le reproche del nuovo responsabilité, traduco, si fa appunto, si fa notare, mi si rimprovera la mia insensibilità. Io non mi difendo, mi dico, ma io separo istintivamente lo scrittore dall'individuo. Il pubblico non ha diritto che alla nostra mente. Il cuore è cosa segreta, sottolineando questo punto che è molto interessante. Il pubblico non ha diritto che alla nostra mente, ricordate che in Valerio questa parola è spirito, dice spirito di per sé, però insomma è traducibile come mente. Il cuore invece è cosa segreta. Un essere mi sembra tanto meno sensibile in quanto esibisce e utilizza di più il suo sentimento. Mi ripugna toccare certe corde, o troppo profonde, o troppo acute, o troppo facili, o troppo potenti, forse ho molto torto. Forse ho molto torto, dice. E mi privo in questo modo degli effetti più potenti e più generali, ma non vi devo concludere che dal silenzio, l'assenza, cioè il fatto che io, dice questo, il fatto che io sia zitto, non bisogna concludere che io non ho cuore, no? Ecco. Questo è un punto molto interessante perché c'è questa specie di ossessione di Valerini di avere mente e di rivolgersi alla mente, di agire secondo la mente. Il nostro scopo qual è? È quello di introdurre, come stiamo facendo ormai da parecchio tempo, di introdurre un discorso su questo grande scrittore sicuramente, un grandissimo sommo pensatore che Valerio, introdurre in quelli che sono poi i suoi tic, in qualche misura, i suoi punti fissi, le sue, per usare l'espressione di Valerio, le sue idee, no? Quello che non bisogna mostrare i propri sentimenti, che non bisogna cercare di sedurre gli altri, perché la seduzione fa leva sul peggio della nostra personalità, sulla vanità e altre cose di questo genere. Ma mi sembra che qui l'aspetto interessante sia quando dice che il pubblico ha diritto alla nostra mente, il cuore è cosa segreta. Questo è abbastanza ingiusto, perché esprit, mente e cuore, è come si fa a separare? Cioè, nel campo naturalmente delle lettere, nel campo della filosofia, che ne pensate? Come si fa a separare? Se io elaboro una teoria filosofica, una teoria cioè che è in qualche modo ricorre unicamente alla mente, ma è possibile che lo faccia al di là del cuore, cioè al di là dell'esistenza, al di là dell'esistenza, ma è impossibile. La teoria che appartiene di più alla geologia, la teoria più fredda, la teoria difficile, però è chiaro che si fa sempre all'esistenza, no? Quindi ho sempre chiesto, Leibniz, il filosofo lo conoscete, quello che ha inventato il mondo fatto con le monadi, no? Con case senza finestre che sono le monadi. Ecco, la domanda che io mi sono sempre fatta è questa, ma cosa succede? Uno si sveglia la mattina e prima di andare a lavarsi i denti dice, vabbè, io sai che faccio oggi? Mi invento le case senza finestre che sono le monadi. Non è così. Evidentemente se uno si inventa case senza finestre è perché ha una visione particolare del mondo, una visione di comunicazione difficile, a dir poco, insomma. È difficile proprio separare una cosa dall'altra, ma nel campo della letteratura è assolutamente impossibile. Dov'è la mente? Facciamo un esempio il più clamoroso possibile. Dov'è la mente e dove è il cuore in William Shakespeare? Non che ne dice lei. Si può separare la mente dal cuore? Non ha senso, non ha senso. No? Che cos'è il monologo di Ableto? Possiamo dire che nel monologo di Ableto sia privo di intelligenza, ma è al contrario una delle espressioni massime dell'intelligenza di ogni tempo. E cosa pone in questione, lo conoscete tutti naturalmente, il monologo di Ableto? Pone un problema che è quello se vale la pena niente meno che affrontare la vita oppure è meglio ritirarsi. È meglio ritirarsi. Ed è un problema che noi abbiamo ogni giorno, che naturalmente, non so, nel caso di una storia affettiva, nel caso di un lavoro che non va bene, che fare? Mi ritiro o no? So che voi apprezzate molto le confessioni che mi sono state fatte in pubblico in tanti anni, così eccetera, i miei fatti privati, che è un'altra cosa. Avevo uno zio che a un certo momento dovette, era una persona di grande intelligenza e un pittore dilettato, un pittore della domenica, lavorava nel comune, un posto al comune. Gli si chiese di spostarsi, stiamo parlando di 100 anni fa, per meno, 90 anni fa, di spostarsi come se di lavoro, cosa che oggi come oggi nessuno farebbe una piega, insomma, si dice di andare a lavorare a Milano, se c'è lavoro, si va. Lì lo spostamento era minimo, io lo spostamento era minimo, nel senso si trattava di andare come di qui a Viterbo, ora, ti offro di andare a lavorare a lei, le offro un lavoro al termo in cui guadagni il doppio, cosa fa? Ci va o non ci va? Un lavoro doppio, non precario, per sempre, a termo in cui guadagni il doppio, ma io però devo andare al termo, vabbè. No? Lui si rifiutò per una distanza tipica quella di, era da Torino alla frontiera, quindi saranno 80, 100 km. 100 km, rifiutò, ecco. E aveva un motto, non intelligente, ma con questi pacchi psicologici, aveva un motto che era questo, che era un motto che le piccole imbarcazioni debbono rimanere vicino alla riva. È bella come motto, no? Le persone che sono piccole debbono rimanere vicino alla riva. Ma Ableto non parla di questo. Cioè, non parla del fatto se vivere o no. Ableto in fondo potrebbe uccidere l'usurpatore subito, ma è pieno di dubbi se avesse fatto lui e che cosa fare e ha rovellato nell'odio che lui vita. Quindi cuore e mente. Ma possiamo dividere il cuore e la mente? Allora possiamo dire che Valerio è uno sciocco per una cosa di questo genere? No, evidentemente. Cosa vuol dire il fatto? Dice una cosa che è sbagliata, perché il cuore e la mente non si possono separare, in Shakespeare non possiamo separare il cuore e la mente, chiaro? Però questa insistenza sulla mente è molto interessante, perché vedete, viene dopo una lunga età romantica in cui il cuore veniva mangiato, per così dire, per usare sempre immagini del teatro elisabettiano, in cui, come sapete, veniva mangiato il cuore degli amanti, cose di questo genere, no? Conoscete peccato che spiriti dice uomo, peccato che sia una puttana, e vabbè. Il cuore veniva servito a colazione, a pranzo e a cena, in tutta l'età romantica. Allora l'idea che si dovesse scrivere con la mente è molto interessante. è molto interessante, e non solo interessante, parlando da un punto di vista storico, perché alla fine dell'età romantica, questi sono i tempi, lui dice questo, ma perché è proprio tutto un modo di impostare la letteratura del Novecento ha dato un enorme prelievo a me, incomparabile a quello che c'è stato diciamo, nel primo secolo, incomparabile. E c'è più scrittore di mente, se così possiamo dire. Flaubert, che lavora nel cuore dell'Ottocento, o Balzac, che lavora un po' prima, o Stendhal, o Dickens, dando un'altra letteratura, o Proust, Joyce, vedete? Questi sono scrittori di mente, cuore anche di lettura, capite? Quindi che scrivere con la mente è tanto che pleonastico dire. Quindi da una parte è impossibile separare cuore e mente, dall'altra parte è molto interessante questa esortazione di Valerio. Poi dice, forse io mi privo delle cose importanti, però non dovete credere che io non abbia cuore, no? Ecco, e qui dice una cosa bella, dice, quelli che ostentano molto i sentimenti, non è mica vero che sono pieni di sentimenti, forse ne hanno poco. Questa è un'osservazione che io facevo, forse non c'entra niente, ma una delle cose che mi colpiscono nel mondo deplorevole dello spettacolo, ma segnatamente di quello televisivo, è che tutti gli attori ci fanno tanti complimenti l'uno all'altro, quest'attore meraviglioso, l'eccezionalità dell'interpretazione, tra di loro, ma è sincerità che dice questo, ma che dovrebbero accoltellarsi, che dovrebbero subito, no? Cioè il sentimento può essere profondo, qui lui era giovane, e può non venire fuori, ci sono delle persone, figli, genitori, amanti, e non più grave, che non hanno la capacità di manifestarsi il sentimento. E quindi quando lui dice, spesso uno che parla di cuore, di sentimento, di amore, eccetera, poi in realtà al dunque ne ha poco di sentimento. Quindi qui anche abbastanza ragione. È chiaro, l'ultima considerazione che volevo fare quando dice che non bisogna concludere che il fatto che ci sia silenzio ci sia assenza. Certo, magari lei vuole, lei ha un papà, è affettuoso con il papà. Allora bisogna trovare una che non sia affettuosa. Lei non è affettuosa, bene. Allora, lei si comporta con un silenzio di sentimenti, diciamo così, parlando, rivolgendosi a suo padre. Però chissà, dice il povero, magari allora di uccidere il suo padre, mi è inutile in queste cose. Magari chissà, lei quello che ha dentro, ma non è capace di esprimerlo, no? Uno ha una sorta di pudore, una sorta di castità, anche di secchezza di modi nel pronunciarsi, capisci? Ecco, ma allora cosa dice, tornando al discorso sulla scrittura, una scrittura di silenzio, no? Una scrittura di silenzio è ammissibile. La mia osservazione è che bisogna che in questo impasto cuore-mente, bisogna che lo scrittore, lavorando con la mente, faccia sentire il cuore, seppure in modo implicito, per sfioramenti, per semplici toccamenti, me lo faccia sentire. Ecco, facciamo. Questo è il pensiero numero 12, diciamo così, della nostra piccola antologia, che ho intitolato così, la mente, dietro, non il cuore. Perché ha una parola che è un po' indietro, Stato, sapete che devo recuperare delle ore. Dunque, quando sono ispirato mi interrompo molto presto, temo, questo è bellissimo, sono pensiero, meraviglioso, temo lì, quindi questo maledetto di intuizioni, uno dice, si perde il volo. Basta. Dunque, quando sono ispirato mi interrompo molto presto, io temo le velocità di questo stato che gettano nell'assurdo. So che bisogna cogliere al volo e se becca di sé, avete capito? Ora, il pensiero è semplice, mi seguite ragazzi, quando uno ha un'ispirazione, fa i giri. Quindi bisogna che esca fuori. Se voi facete il mestiere di scrivere, vi renderete conto di quanto potete dire. Uno scrive un pezzo, e ha la convinzione di aver un pezzo bellissimo perché era ispirato. Mai credere a se stessi. Bisogna lasciare il pezzo lì, è un duro esercizio, ma la scrittura, il lavoro intellettuale è fatto di disciplina. Qual è la base del lavoro intellettuale? Questa parola, la lì con me, disciplina. Quindi tu puoi andare a vedere la televisione, vai a letto, fai quello che vuoi, e dopo rivedi quello che hai scritto. E a volte ti rendi conto che quello che hai scritto va male. Perché va male? Perché con troppo impeto, se sei lasciato andare, allora uno non dovrebbe avere impeto, no? Le due cose insieme. Bisogna essere ispirati, avere impeto, però poi bisogna avere anche la tempo squad per poter vedere le cose che non vanno. Questo è senz'altro condividibile, questo pensiero. Vediamo qualche nota che si può fare contro questo pensiero, ma non per il gusto di contraddirlo, ma per rendere, come dire, più ricco il panorama che questo pensiero offre. In fondo, quando lui dice devo uscire presto dall'ispirazione, mi pare un po' una posizione autocastrante, capite cosa voglio dire? Autocastrato. È un po' la voce test, il quale si proibiva qualunque emozione. Ma cioè, a degli occhi, questo è un punto fondamentale, lasciarsi andare nella vita è importante. Pensate quanto poco voi vi lasciate andare in un contesto pubblico come questo, è per fortuna. Perché se a un certo punto vi lasciaste andare qui e lei non so, cominciasse che fare i rutti, sarebbe una cosa assolutamente disdicevole, per un altro provare altre cose, oppure a dire me stesso, non lo so, a fare qualche altra cosa, controllo la modalità. Ma importa anche nella scrittura, attenzione, importa, tra l'altro il consiglio che vi sto facendo, importa anche volersi bene. Questo volersi bene è importante quasi quanto l'avere la testa fredda. Cioè rendersi conto che si può abbandonare, ci si può abbandonare. C'è un esercizio, mi ricordo una volta, che facendo un training di psicanalisi, perché quando ero giovane volevo diventare analista, che facevano fare, che era un esercizio difficilissimo da fare, era sulla moquette con cuscini così eccetera, ed era la posizione eretta, bisognava buttarsi all'indietro. Allora voi sembra facile, ma buttarsi avanti mantenendo le gambe dritte è difficile, buttarsi all'indietro è difficilissimo, perché hai delle mine resistenti a livello di carico, non ce la fanno. Allora andiamo di dietro adesso, cambiamo lo scenario, andiamo di dietro, c'è una rete che ti accoglie e ti butti indietro, continua a essere abbastanza difficile. Questo esercizio che si fa, visto come metafora, ti fa capire quanto sia difficile buttarsi nei rapporti affettivi, non necessariamente con il tuo amante, la tua amante, no, ma anche un amico. Uno ha una sorta di paura, di diffidenza, come sarò accolto, come sarò accolto, posso essere distrutto. Noi viviamo sostanzialmente con un mitra puntato verso chi ci può distruggere. Voi vedete persone che facciano ma vedete, i colleghi, i professori universitari tra di loro hanno dei piccoli mitra puntati, no? È passata una collega che io l'altro giorno, sono abbastanza violento con le cose, quindi un po' di sfrutta, non sa che io sia così buono. Mi conclamavano, perché mi guardavo con occhi, feroci. Che avete potuto trafiggere di l'aveva fatto. Io ho un gran sorriso, con piacere, falso veramente. Il sorriso mio era falso, come lei avrà voluto, proprio non dico sparare, ma insomma. Quindi tutto finito, l'ostilità del mondo professionale è molto esigua, è tutto dovuto al fatto che al momento la persona non ci aiuta e contro di noi, perché domani la situazione cambia, no? La grande differenza c'è tra la Gemeinschaft e la Gesellschaft, ve lo farò domani di questo, bellissimo, ma non è possibile, quindi. Io direi che parlo a tutti della Gemeinschaft e della Gesellschaft, ho cercato di parlare di voi, vediamo un po' se qualcuno è voluto dire, qui, al gestore del bar. È un concetto bellissimo quello di Gemeinschaft, che vuol dire comunità, e stiamo parlando di questo, e di Gesellschaft, che vuol dire società, di un sociologo dell'Ottocento, che credevo di conoscere solo io, si fa per dire. Ma insomma, sono rimasto colpito che questo libro poi è stato ripubblicato circa 10 anni fa, è un po' successo. L'autore si chiama Tönnies. Ed è un titolo comunità che succede. E lui dice una cosa bellissima. Dice che il grave problema dell'esistenza, questo lo diciamo a margine di Parigi, è che noi confondiamo la dimensione della comunità con quella della società. Che cos'è la comunità? La comunità sono i nostri cari, che sono pochi. Per esempio, non è mica detto che i paesi siano tutti cari, amo. No? Sono parenti che sono legati a noi ma in modo nominale, non li vediamo mai, oppure li sentiamo, cugini, mi segue? Lei ha fratelli? No. Odia qualcuno dei suoi parenti? No. Essere più creativo. Qui prendi una ragazza che è una creatività sola, odia tutti, curava tutti. Mi piace censurare questa ragazza con i suoi interrompimenti. La comunità è un luogo in cui tutti siti. Quindi puoi dire, puoi mostrarti la cosa. Quando tu esci dalla comunità, papà, mamma, fratelli, sorelle, fidanzati, amici, amici qui, per esempio voi due, mi pare che fate comunità, poi vi mostrerò come invece potrebbe diventare amici. Uno comincia a entrare nel mondo del lavoro, nello studio dei colleghi, allora vedi il collega che ti era in male, no? Quello che ti fa bello davanti al professore, quindi fin da piccole cose si può notare. Siamo nel mondo della società, nel mondo dell'affermazione di noi stessi. Allora, volere comportarsi nel mondo della società come se fossimo ancora in uno stato edenico, in uno stato infantile, in cui tutti ci vogliono bene, è una follia. Quando io vedo all'università dei colleghi, che donne soprattutto, che cercano di comportarsi in modo affettuoso con i colleghi, facendo finta di niente, non si può fare finta di niente. Il mondo della società è duro, è fatto di rivalità, è chiaro il concetto, è fatto di competizione, perché tra l'altro che due ragazze che attualmente sono amiche, ma ove mai che due ragazze trovassero, se due ragazze così si trovano in una competizione omosessuale, voglio vedere quello che succederà accanto. Ci dormiremo però. Naturalmente, essendo persone civilizzate, non lo direbbero se stessi, ma si odierebbero. Quindi tutti noi dobbiamo prepararci a gestire il rapporto con la società, che deve essere diverso. E per concludere con il discorso di una frase meravigliosa, dice che i bambini, il ragazzo che entra in società, dice così, si va in società come in terra straniera. Si va nell'università, nella scuola, nel mondo del lavoro come in terra straniera. Bene, allora, tenendo conto di queste cose, quando noi scriviamo, dobbiamo censurarci, nel senso che l'ispirazione bisogna a un certo momento tenerla a freno, no? E poi prendere qui. Però bisogna anche volersi bene. E qui è la difficoltà, perché uno volendosi bene poi fare le cazzate, bisogna cercare di non fare. Ma chi si censura troppo, chi si punisce troppo, questo è il concetto. Chi si metta troppo, perde freschezza. Capite? Il pensiero troppo autocensurante perde ricchezza, non so perché. Ecco, era questa la considerazione. Quindi è come se, voglio dire ancora una piccola cosa, è come se valeri sempre per il culto della mente, per il culto del controllo di sé in qualche modo, non tenesse adeguatamente conto del fatto che bisogna essere freschi, bisogna sapersi abbandonare. Anche. Ecco, qual è il limite? Il limite lo stabilisce il genio. Il limite è il genio. Leonardo sa benissimo fin dove può andare e quando deve fermarsi. Andiamo oltre e andiamo al, questo era l'11, quindi l'altro è il 12, e noi adesso andiamo al 13, al pensiero numero 13, che è a pagina 195. Che dice quanto segue? Alla fine della pagina. Ci siamo? Ho la perpetua sensazione di perdere il mio tempo, non quando sono deportato dal mondo, ma al contrario, quando lavoro. E questo lavoro, si applica a qualche oggetto diverso da quello della mia propria modificazione o edificazione. Niente, qua, ho la perpetua sensazione, ripeto, di perdere il mio tempo. Non quando sono deportato dal mondo, ma al contrario, quando lavoro, questo lavoro si applica a qualche oggetto diverso dalla mia modificazione o edificazione. Che chi sono coloro che sono deportati? Cosa vuol dire essere deportati dal mondo? Ecco. Alessandra, se non sbaglio, lei è Alessandra. Cosa vuol dire essere deportati dal mondo? Come? Sì, ma dal mondo, dove vai quindi quando sei deportato dal mondo? No, è la società che ti ruba te stesso, se tu devi fare molti... Senta un po', lei non ha mai pagato la bolletta della luce. Ci sono cose più... così più stimolanti intellettualmente, no? Posso dire così, e anche erroneamente, è vero, non imparare la bolletta della luce, però è un momento in cui tu appartieni alla società, appartieni al mondo, ai lavori che devi fare, no? Quando tu sei in autobus, in qualche modo, per andare in un certo luogo in cui potrai, mettiamo, incontrare una persona che ti piace incontrare. Ecco, allora sicuramente nell'incontro che fai con la persona che ti piace incontrare, lì sei, vai incontro a un tuo desiderio, sei te stessa, ma nel momento in cui ti fai rigore e mezzo di autobus, lì sei deportato dal mondo. Ma allora perdi tempo quando vai in autobus o quando vai a pagare alla posta la bolletta della luce? No, non è lì che perdi tempo, dice la Verità. Perdi tempo invece, scusa. Sì, esattamente. Perdi tempo quando fai un lavoro che non ti modifica. Allora cerchiamo di immaginare un lavoro che non ti modifica. studiare che tipo di lavoro è, che modifica. Modifica, edifica. Studiare edifica o no? Vabbè, certo, sì. Trovatevi un lavoro che ti edifica, dove c'è? E edifica, cioè modifica e edifica la stessa cosa, no? Un lavoro che ti modifica e edifica. Un'occupazione, diciamo così. Scrivere e dipingere. Andiamo a leggere, andiamo su ascoltare musica. Andiamo sul sociale. Lo direi una cosa che ti modifica e edifica. Scusa? Ma senza dubbio. Ma senza dubbio. Senza dubbio. O lei? Lei si chiama? Marusca. No, non mi viene. Marusca. Marusca. Ah, Marusca, ma lei, certo, la facile. Ecco. Un lavoro che ti modifica e edifica. Ma lei è italiana? Sì, va bene, invece. Che dice? Ho pensato anch'io. Sì, ma se vai a un incontro. Se vai a un incontro con un compagno di scuola che non hai più veduto da molti anni, questo ti modifica e edifica o no? Cosa dice? Dipende. Se vai all'incontro con una persona con cui poi a posteriore si vede, nasce, a posteriore lo vedi, è nato un rapporto amoroso. Questo ti modifica e edifica? Certamente sì, la mano. No? E ci sono delle cose, dice lui, che invece non ti modificano, edificano. Andare a pagare la bolletta della luce sicuramente non ti modifica. Allora, il tuo problema è che tutto quello che non ti modifica e edifica è una perdita di tempo. Ma anche qui noi possiamo fare una riflessione. Questo è senz'altro vero. Noi dobbiamo cercare di fare qualcosa per non perdere tempo che ci modifichi barra edifichi. Su questo non c'è dubbio. Per esempio, vedremo tra poco questa cosa. Mettiamo che io sia uno scultore, ricordate di quello che vi farò tra poco. Io finora invento. Io ho finora scolpito delle tette, va bene? Sono diventato bravissimo. Sono così bravo che posso fare queste tette in pochissimo tempo. In pochissimo tempo. Io so fare le tette. Un giorno un amico mi trova e mi dice: sto facendo un nudo di donna. E lo faccio non tanto bene. Perché non tanto bene? Perché io so fare le tette. Quindi il nudo di donna mi riesce perché è più difficile. Allora l'amico mi dice: ma scusa, ma cosa stai facendo? Sto facendo un nudo di donna. Ma qual è il tuo scopo? E diventa. Ma, dice l'amico, tu venderai molto meglio le tette, che sai fare benissimo, che un nudo di donna, che invece non sai fare. Allora l'amico potrebbe rispondere, lo scultore potrebbe rispondere. Dice: sì, ma io mi annoio facendo sempre quello che so fare. No? E quindi, in realtà, io ritengo di perdere tempo facendo quello che so fare. Per non perdere tempo faccio delle cose nuove. Anche se le faccio male, ma comunque mi sono utili. Mi seguite in questo discorso? Ecco. Mi interessa tutto? Allora, chiudiamo un po' su questo fatto. C'è un video, questo video va all'università, qui ci sono i bivi, cose di questo genere, e voi avete fatto sempre una strada, sempre quella strada. Per cui, insomma, praticamente avete passato un po' la vostra vita facendo sempre quella strada, ma un giorno qualcuno vi dice: ma guarda che la strada che tu non hai mai fatto, quella va ugualmente all'università. E voi dite: ma e poi non arriva, se perdo tempo, semplice, secondo me, e anziché arrivare all'università o alla finire a Marino, poniamo, posto indubbiamente gradevole, se qualcuno di voi di Marino, no, posto gradevole, però a Marino troverebbe difficilmente il professor Guarani, ma a me, almeno non vada a bimbocciare facendo che so, no? Però voi dite, ma se io faccio questa strada nuova, io poi potrò continuare a fare la strada vecchia, ma posto che la strada nuova arrivi anche quella all'università, la mia vita diventa più ricca. Passerate la bellezza di questi concetti, la mia vita diventa più ricca. Avrò due strade da fare. No, ne posso fare una, ne posso fare altra. No? Seguitemi. Chi non viaggia, chi non vuole modificarsi, chi non vuole edificarsi, pian piano viaggia sempre di meno. Anche se perdiamo un po' tempo, ma il discorso è un po' come la storia degli anoressici. L'anoressico è uno che fa schifo il cibo, no? Non gli viene qualcosa di... e per quello mangia di meno, mangia sempre di meno, no? Ma anche una dieta, voi sapete, che la difficoltà è a dopo un po', ti capisci, lei sta pignattando così, niente non devo rilassare, ma è così. Sì. Vale la stessa cosa, cioè noi siamo animali di abitudini, possiamo scegliere di ampliare la nostra vita e possiamo scegliere di rinchiuderla, eh? Tu puoi sposarti e vivere con la moglie a fianco e basta, e qualche ultimo e basta, vedrai 3-4 persone, alla fine di queste 3-4 magari ti stupi, diventeranno due o una e rimarrai in un rapporto simbiotico quasi con la persona con cui sei, e puoi scegliere invece di vedere altre persone, di aprirti. Allora dov'è che non si perde tempo seguendo questa traccia di pensiero? Dov'è che non si perde tempo? Non si perde tempo quando facciamo nuove esperienze, quando facciamo cose che ci modifichino e edifichino. Chiaro il punto? E adesso ragioniamo in senso opposto, per contraddire quello che abbiamo fatto. Ma se io perdo tempo invece, cioè se scelgo la stessa strada per andare all'università, eccetera, eccetera, eccetera, no? Devo per questo crocifiggermi? Vedete questa mancanza di carità per se stesso che ha Valéry? Ma il problema è questo, che se un artista ha poca carità nei confronti di se stesso, diventa troppo sciuto, troppo a secco, troppo arido. Voi avete seguito la lezione del modulo A di Proust, quella di Bergotz, chi è che l'aveva seguita di voi? L'aveva seguita Bergotz, diceva che era diventato troppo secco. Allora, in conclusione, è vero che tu per non perdere il tuo tempo devi fare cose nuove che ti modifichino e edifichino, ma è altresì vero che se perdiamo il nostro tempo, facendo cose che non facciamo fare bene, oppure anche non facendo niente, ossiando, non è detto che quella sia l'istruzione di vita. Se noi andiamo a vedere i ragazzi che fanno fare tubo di fuochi, stanno perdendo il loro tempo, sì e no, perché intanto socializzano, perché entrano in rapporto con se stessi comunque, perché si vogliono bene, perché chiacchierare con un amico, con un amico con cui stai dicendo delle sciocchezze e non hai nessun scopo formativo di te né di lui, insomma, però può essere dolce. Ecco, è chiaro il punto? Va bene. Ecco, mi premeva questo e volevo mettervi in farvi rilevare a tutto questo concetto come ci sia nel discorso che stiamo facendo un bisogno fortissimo di disciplina e non si avvertano le necessità dell'indulgenza. Io posso studiare, e studiare è disciplina, ma il momento in cui perdo tempo, perché per esempio sto pensando a una persona, e allora prendiamo un'altra parte dell'arte, non so, si innamora, mentre sta parlando dell'arte, è la mia. È la mia. Portare sulla stessa pagina, leggere la stessa pagina, capisce assolutamente. Tempo perduto? Sì, ma anche no, perché è un tempo di inchiesta esistenziale, capite? Ecco, questo concetto, spero di averlo chiesto.